Scuola in controluce. È guerra generazionale nelle università dopo la sentenza della Corte Costituzionale che il 6 maggio ha stabilito che possono restare altri 2 anni i professori ultrasettantenni che lo vogliano, contrariamente a quanto stabilito dal tetto introdotto dall'allora ministro Gelmini. E molti professori stanno approfittando della sentenza della Consulta, sono infatti molte le richieste che stanno arrivando da parte dei prof anziani per restare in cattedra. Peccato che se questi restano, segano le gambe di fatto ai giovani ricercatori che vedono allontanarsi sempre più la speranza di un posto fisso. I soldi a disposizione infatti sono quelli che sono, come sappiamo, quindi o si paga un professore anziano con il suo bello stipendio, peraltro non bassissimo naturalmente, oppure si paga un bel gruppetto di giovani. E ci fa piacere parlare di questo tema proprio oggi che a Roma, come sapete, c'è il vertice sul lavoro voluto fortemente da Letta proprio sul tema lavoro giovanile. In Italia i docenti ordinari sono quasi 15.000, di questi circa il 10% ha almeno 70 anni. I ricercatori invece sono circa 24.000, questo tanto per dare un'idea di tutta la faccenda con qualche numero. E allora vi chiediamo da che parte state. È giusto che i docenti ultrasettantenni restino, di fatto impedendo l'ingresso dei più giovani nelle università? La vostra opinione al 349-238-6666. In attesa delle vostre opinioni, molto chiara quella di Oscar Ascenzi, segretario del Coordinamento Nazionale Ricercatori Universitari. Lo ha intervistato Riccardo Porcù. Per come è configurata la legge oggi, se passa questa norma che dà la possibilità ai professori di chiedere il più due, allora arriviamo al blocco totale. Per capirci, le università saranno costrette a dare la possibilità a questi professori di chiedere il più due. Non potranno dire sì a tutti, come facevano prima, non potranno neanche però dire no a tutti, perciò qualcuno dovrà essere assunto. Ma di fatto questi professori, per come è configurata oggi la legge, vengono visti come nuove assunzioni. Perciò se io, è come se avessi un barone che va in pensione, e poi il giorno dopo lo riassumo. Se questi baroni andassero in pensione, così come previsto dal decreto Gelmini, quanti posti libererebbero? Se vanno in pensione 5 ordinari, poi alla fine io posso assumere un paio di giovani ricercatori a contratto. La cosa paradossale è che il problema non è a costo zero, perché la legge oggi dice ogni 5 persone che vanno in pensione ne puoi assumere una. Perciò i 5 professori vanno in pensione e io do i più 2 solo a un professore, comunque lì mi ha mangiato tutti i punti che posso spendere con quei pensionamenti. E quindi non sarebbe possibile neanche assumere quei pochi ricercatori che sarebbero... Esatto, andremo proprio allo stallo totale. Quello che arriviamo è allo stallo totale del sistema, così come è configurato. Cioè è un sistema che brucia continuamente risorse. Spesso si giustificano dicendo noi facciamo un servizio per l'università, per noi è importante restare, ma è importante anche per l'università perché noi abbiamo delle qualità e delle esperienze che altri non possono avere. Lo so, ci sono persone che hanno 100 anni, che hanno quelle qualità, che hanno, però voglio dire, se uno guarda il rendimento effettivo di queste persone arrivate a una certa età, insomma, gli anni passano anche per loro, perciò non è che hanno questa capacità, anche questa energia che hanno i giovani. Insomma, guardiamo cosa succede in Europa. In Europa queste cose non succedono. È vero, c'è qualcuno che a 70 anni è brillantissimo, bravissimo, però se andiamo a vedere, diciamo, la media, tutta, diciamo, questa brillantezza non c'è in questi professori. Cioè, insomma, sono anche stanchi di fare didattica, insomma, spesso ci sono più che altro posizioni di potere che giustificano questa richiesta, non certo il fatto che questi sono iperefficienti, ecco. Diciamo, nel periodo dell'iperefficienza molti l'hanno sorpassato da parecchio. Si va a creare una sorta di guerra tra età e tra i ricercatori, i nuovi che vogliono entrare e chi invece vuole restare. Oggi è inevitabile, uno scontro c'è e sarà ancora più forte domani. Però noi abbiamo fatto una stima, si arriva a un rapporto di questo tipo, se tu hai 100 ricercatori assunti, ci sarà il posto solo per il 10% di questi. Cioè se tu hai 100 ricercatori, solo 10 potranno essere promossi. Magari avrai 30 o 40 idonei, o si rifinanzia la legge voluta dalla Gelmini, o se no rimarranno al palo. Perciò si stanno già creando in molti atenei tutta una serie di tensioni interne. Gente che ha capito che non prenderà servizio. Insomma, questo non è un paese per giovani. No! Perciò no, purtroppo per chi ha preso servizio appunto negli anni 90 la situazione non era così brutta. Il problema è la situazione per quelli che hanno preso servizio dagli anni 2000 in poi, perché c'è molta gente che prende servizio a 40 anni e se uno deve andare in pensione a 65 anni cominciando a pagare, diciamo, i contributi a 40 anni, lei capisce che si andrà in pensione con delle pensioni misere. Una vergogna, vincono sempre le solite lobby. In un paese normale questo non è normale, ma visto che siamo in Italia tutto è possibile. Alcuni fra gli sms arrivati al 349-238-6666. Giancarlo Roviario, professore di chirurgia generale presso l'Università Statale di Milano, uno fra i prof anziani di cui stiamo parlando. Sentite cosa ha raccontato al microfono di Riccardo Porcù. Lei ha dichiarato che restare all'università per altri 2 anni è un atto di devozione. Sembrava non corretto rifiutare la possibilità che la Corte Costituzionale, anche perché voglio bene alla mia università, ecco sì, atto di devozione può andare bene come concetto, però era proprio un fatto di principio. Dando questa possibilità, ignorarla varrebbe a mio parere dire non mi interessa niente dell'università, non per occupare una poltrona o un posto di cui dopo 43 anni potrei anche essere stanco in teoria, un fatto affettivo. Io compio i 70 anni in agosto e sono 43 anni che sono in università. E lei per quale motivo ha intenzione di restare altri 2 anni? Ma io non ho motivi, cioè io non avevo nessuna intenzione di fare domanda, ma poi ho avuto anche delle insistenze, ma perché non fai domanda? Insistenze, mi scusi, da parte di chi? Da persone dell'università stessa, da amici, da colleghi, dall'ambiente universitario. E allora mi sono detto, ma c'è questa legge, c'è questa sentenza che mi dà la possibilità, no, che dice che è incostituzionale che io vada, capisce che non è per un motivo, uno può dire per motivi economici, ma nulla di più falso, perché dopo 43 anni di carriera universitaria, lei capisce bene che più o meno il mio stipendio, che è quello che è, sembra uguale a quello che mi dà l'IMSS, e potrei fare benissimo i comodi miei, per cui non è un fatto pure economico, è un fatto proprio puramente affettivo, puramente istituzionale, e nulla di più. E non rispondere a questa legge, a mio parere, sembrava come un atto di menefreghismo, guardi, di non correttezza verso l'università. Io ti do questa possibilità e tu la rifiuti. Io così l'ho interpretata. Come la mettiamo con il problema del ricambio generazionale e con i nuovi ricercatori che vorrebbero entrare? Guardi, io non capisco in cosa posso limitare la progressione di queste persone. Proprio non credo che se 3-4 professori cambiano, ma io ho fatto 30 anni di ricercatore, di professore associato, cioè proprio sono rimasto fermo aspettando i concorsi. In questo momento qui ci si riempie la bocca di ricambi generazionali, ma ai miei tempi nessuno ne parlava mai. Allora non le sembra giusto, proprio grazie alla sua esperienza, lasciare spazio anche ai nuovi ricercatori? Ma io lo lascio, perché io non levo nessuno spazio, a mio parere. Se il rettore mi dice, guarda, se tu col tuo permanere mi blocchi l'assunzione di persone, fai come vuoi, io vado via. Però c'è il rischio che comunque si crei una guerra tra generazioni. Ma c'è già la guerra di generazioni, ma c'è già. Ma lei si ritiene un barone? No! Ma io ero figlio di un fruttivendolo, ho fatto proprio la mia vita, proprio nella mia carriera di 40 anni, fin da ragazzo adesso, proprio di barone, no? Proprio barone, no? Magari mi posso considerare un principe della chirurgia. Ci scrive Chiara da Savigliano, in provincia di Cuneo. Avevo un professore di 80 anni di cui non si comprendeva cosa diceva a lezione, peccato che con lui dovevamo dare 2 esami più difficili di tutto il percorso di studio. E poi ancora, la casta è vasta e va sradicata, solo con rivoluzione ghigliottina addirittura potrà essere estirpata. In mezzo comunque fra docenti e più anziani che vogliono restare aspiranti docenti ci sono invece i rettori. Al Politecnico di Milano, non potendo violare una sentenza della Corte Costituzionale naturalmente, hanno deciso di inserire talmente tanti paletti per restare dopo i 70 anni da rendere la cosa praticamente possibile solo al vincitore di un Nobel, come ci racconta il rettore Giovanni Azzone. Nessuno dei miei colleghi è venuto da me a lamentarsi di questa scelta, nessuno finora. Nessun naso storto, quindi? Assolutamente. È brutta questa cosa della guerra generazionale nelle università, però di fatto è una realtà. Devo dire, è brutta, però diciamo che non stiamo mandando via le persone a 50 anni. Credo che a 70 anni ci sia anche una ragionevole possibilità di continuare a collaborare col mondo della scienza e della ricerca senza avere l'impiego strutturato come professore. Quindi non drammatizzerei l'evento. Credo che oggi sia importante soprattutto dare possibilità ai giovani e ai giovani che sono fuori dal sistema universitario. Quindi è per me talmente importante questo che tutto il resto rappresenta un sacrificio, devo dire, ben accetto anche dai miei colleghi che si rendono conto di questa priorità. Ai professori che invece chiedono di poter rimanere oltre questa soglia di età, che cosa si sentirebbe di dire in generale, non a quelli del suo ateneo? Ma credo che il messaggio sia un po' quello che abbiamo cercato di dare noi. Devono esserci condizioni veramente eccezionali, individuali, che giustifichino il fatto di rimanere in servizio, togliendo in realtà opportunità di sviluppo e di crescita a quei giovani che oggi devono entrare nel sistema universitario per rivitalizzarlo. Ma che cosa c'è, secondo lei, dietro queste richieste? Ma devo dire, c'è di tutto, nel senso che c'è anche il fatto che una persona ha voglia di riaffermare la propria utilità per il sistema. Quindi io non credo siano solo comportamenti opportunistici o cioè di interesse, di baronia, ma proprio la voglia di una persona che ha una qualità scientifica importante di riaffermare il proprio diritto dovere a essere utile al sistema. Purtroppo siamo in tanti a essere utili e qualche scelta occorre farla. Ingordi, le bare non hanno le tasche, così ci scrive Claudia da Genova. Ed è tutto per Scuola in Controluce, grazie a Riccardo Porcu per le interviste, a Filippo Aureggi in regia, un saluto da Maria Piera Ceci. Scuola in Controluce.